Beh, tutti molti siete. Pronto? Pronto, c'è qualcuno? Cambio. Pronto, pronto, c'è qualcuno? Vado a chi? Beh, Vanni Nobante era risorso. Bravo, non c'è nessuno. In giro. Ah, tutti in giro sono. Vabbè. Ecco cosa ci vuoi fare, vuol dire che sono a passeggio. Attenzione, il Covid, passeggendo. Allora, non sai che cacchio. Tu cosa stai facendo, Claudio? Che bello. Nulla, stavo ascoltando a 525 che c'è Roberto con Gianfranco, e stavo ascoltando, niente di particolare. Aspetta, sto regolando la radio. Ora 1, 2, 3, 4, bene, va così, o troppo alta? Ah, cazzare, no, va bene, almeno da me va bene. Ehi, va bene. Non è poco di... Ah, ecco, non è poco di ventola accesi, no? Ma prendo caldo, dice. No, c'ho gli amplificatori che ogni tanto li faccio, li accendo, là, per farli scaldare, niente di particolare. Vabbè, carica il condensatore, sta male. Oh, mia gara. Vabbè, non fa. Io non sono uscito da nessuna parte lo stesso. Scusa, se senti qualche fischio sono in cuffia. Sono cuffiato. Va bene. Allora, riesce a essere così, è più romantica la modulazione. Lasciamo stare così, dai. Già va bene. Sì, già andare. Io stamattina mi stavo mettendo il 732 in macchina. Sono stato frontalino, sotto lo specchietto, ho fatto spazio all'857, però ancora non l'ho buttato. Certo, l'antenna, sono con la radio adesso, mi metto l'antenna. Tanto. Vabbè, vediamo un po' se mi ha perso questo qualcosa. Vabbè, intanto comunque sarà pronto per quando vado su. Tra poco siamo di nuovo in piena stagione. Tu devi andare, Vanni, cosa? Oramai il tuo campo è quello, devi andare. Va bene. L'importante è che sia tutto a posto, poi problemi non ce ne sono. Va bene. Qua stavo dicendo un'altra cosa. Perché non entri a 525? Te l'ho fatto due chiacchiere, non è voi. Certo, c'è Gianfranco con Roberto. Vediamo se sarà 10 anni che abita a Canica. Sta 7 anni non esce, ma non c'è stato ultimamente. Infatti, da quando è diventato l'animatore Roberto. Devo ricordare di pagare il cambio. Vanni, a una stessa cosa ti dico, ma anche oggi ho pagato ancora. Ma te cosa succede? Qui ha si pagato il pacchetto. Quando rinnovo, mando 70 euro, 50, quelli che... Come quando rinnovo mando 70 euro, se vuoi ti mandi 70 euro? Se 5 euro a chi ne devi mandare 70? E a Claudio il carico che non ho pagato glieli pago al momento del rinnovo, no? Ah, allora tu sei arretrato? No, io non sono arretrato nulla. Io c'ho il solo tutto a posto, là. Devo pagare 2022, di solito lo pagavo all'inizio di gennaio, ma mi sono dimenticato con tutte le cose che c'ho da fare. Adesso domani o dopodomani andrò alle poste e lo pagherò. E a Claudio, guarda per dire, no, quelli che non ho pagato me ne mando lì, tanto basta che glieli dai, tanto a rifiutare non lo rifiuta, non più. Capito qua, no, non lo so, forse da un anno, ho detto quando è glieli mando tutta assieme. Capisce Claudio? Sì, sì, alla grande. Vabbè, basta, ma spero che manco di gioco. Spinge alla grande, non c'è problema. Sempre in cosa, sto usando. Vabbè, tanto va per guai. Hai visto? Così è caro. Vabbè, non basta, non fare niente. Già spinge, aspetta, mi è arrivato un messaggio. Eccomi qua. Sto ascoltando, un attimo. Qua sì. Frattempo mi ho riparato un paio di occhiali da orologiaio, quello con il gabinetto. Di tutto di più, adesso ho tenuto un HF, il VU bene, la scopri, io adesso mangiare. Non lo voglio. Se domani mattina. Se domani mattina ti chiamo, se sei disponibile, scendo. Non lo prendo, che mi serve la mia. Perché ho preso un altro, me l'avevo venduti tutti, ne avevo quattro anche io. E me li avevo venduti. Adesso però me ne serve un altro, vedi, infatti sto usando l'MC50 col 140, capito? Però non mi piace. Non esce come l'MC60. E quindi me ne metto un altro, siamo a Puglio. No, ma poi l'MC60 è il massimo in questa radio qui, si dice parecchio bene, funzionano bene, sono nato per queste radio, no? C'è niente da fare, no? Infatti, un altro mondo. Un'altra Dubba, non un altro mondo, un'altra Dubba. Ma so, Claudio, io gioco, cosa vuoi fare? Sono convinto, ma è così. E te l'ho detto, a parte che le 20:60 in queste radio, va perfettamente bene, non l'altra anche se le regole, poi alla fine questo lo metti da questo, senza bisogno di fare niente. Poi la differenza. Ma comunque. Allora, io ho fatto un lavoro stamattina. No, quindi stavo chiedendo a Ilaria se c'era la macchina disponibile domani. Lei, vabbè, entra alle 7:30 a lavoro. Quindi l'accompagno e mi prendo la macchina. E poi ti chiamo, beh, non so, dammi un orario, metà mattinata, prima mattinata, non lo so, come vuoi tu, per un caffè, dimmi tu. Vado giù, dopo le 8:30. Ah, bene, dopo le 8:30 sei già disponibile. E allora mi viene bene. Alla grande, allora io mi accompagno a lei al bar, apro il bar e poi verso le 8:30 ti chiamo, così faccio tutto e poi me ne rientro a casa e noi subito. Ok, rimaniamo d'accordo così? Va bene che va bene, tappa di esogero. Sì, e dove lo devi attaccare? Ah, 740, cosa fa? 430. Sì, ce ne ho due 430. Ho due 430 e 140. Un 430, quello con tutti i filtri per l'HF, già provato, perfetto, esce benissimo. E gli altri due così per la 27, capito? O uno o l'altro. C'è un casino, non so più niente, c'è un nudo che fa. Cosa vi fa? Chi è? Chi è questa portantona? No, stai uscendo di radio, chi è? 25, però non stai uscendo di radio. Hai visto il tuo segnale? Ciao, Dani. No, non sto guardando. Ma non hai visto la portante a 9? A me era 9:25, poi non lo so. Ho sentito un silenzio un po', ma Chi è la Sassari? Sicuramente la Sassari, così alto il segnale, sicuramente era qua. Era 9:30 qua. Ah, figura di due, da me 9:25. Ciao a te. Buona. Sono il bolo, la maniera non c'è più. È buona, ciao Vannino. Se avessi tu a nome stile, ora hai il tuo dire che è buono, vado a lui e sta la maniera, ma io... lui è sempre già fissa e roba del genere. Ma Vannino che colpa. E così è. La radio la mia? Sì. No, con me c'è perché l'ho rifatta, perché effettivamente l'ho finita quella là. Avevo promesso a darla a un amico, sinceramente non ne avevo più, allora ho detto la rifaccio e già la do nuova. Ma è la tua vecchia, ma fa brutto di lui è meglio, capisci? La tua vecchia. Vabbè, comunque, sono amici, io non hai amici, ma c'è a proprio, però Cario è a pochi e presto. No, veramente questo qua me la compro, non è che... Io ci la sto regalando, non è che non la sto regalando, anzi è più quello che ho regalato che ho venduto, figurati. Ti posso solo dire una cosa, sono i primi 20 kg che ho fatto, me ne ho alzata una. Ho capito, ma comunque ti stavo dicendo, già lo sai, pure se c'è da assaggiare, già lo assaggiamo. Assaggiamo sì, non c'è problema. Beh, attento, no, non mi dare molto a mio padrino che ingrassa i miei otti. Abbiamo fatto, uscendone, non so se l'hai visto, stavo dando la mano a Fabrizio per fare l'antenna la mattina, alle 5 mi sono andato, mi sono messo a fare questa roba qua, finita alle 10 e mezza, 11. Sì, già me l'ho letto, questa latte, lì era spunta, questa latte la volante, e vabbè, anche lì era a fare quel lavoro, già, andando a vedere piazzato, è tutto, è in stato di abbandono, e alla fine bisogna terminare anche lì. Stanno ovviamente rimettendo il tutto a posto, d'altronde non si può fare in un giorno. E come fa a fare in un giorno? Via, fare in un giorno, sì, ciu. E tu sempre con la tua azienda, la JD, con quella che è entrato qui? Sì, vabbè, io diciamo che sono uno di famiglia lì, quindi bisogna procurare un po' di lavoro, però già si tira avanti, dai. Vabbè, lavoro è basta, vai a fare tutto, ragazzi. Ma uno è bravo, già lo recupera, non bisogna mai memorizzare, se puoi ricordare. Sembra così, ma esce dalla porta e entra dalla finestra. Piano, non bisogna mai rimuovere. Tu che sei scappato via. Così, io tra te siamo di nuovo fuori, tra te iniziamo a fare. Eia, a proposito, adesso lo conosci anche tu, Mario Del Rio. Mario Del Rio, ma questo? Sì, abita nella via dove, di fronte allo Chenon. Allo Chenon, Mario Del Rio. Ah, impresario, grande, una persona lunga. Sì, una persona grande, più grande di me. Siccome ho telefonato oggi, volevano dei muratori, adesso gli ho consigliato a lui, ma ne avevo già dato due di aziende, dove aziende simili, dai, diciamo, che stanno cercando, adesso le devo valutare e vedere un po'. A me mi interessano più che altro manovrare per il momento. Adesso gli do l'indirizzo e si arrangia lui. Sì, adesso l'ho visto più. Per quello che sono quello io, però se il figlio ha tanto senso dell'atteggiamento, non è quello. No, non è quello allora. Guarda che gliela morta la moglie, credo 2 anni fa, un anno e mezzo fa circa, ha una figlia. Beh, ma sicuramente lo conosco, non è mai un mio, perché Mario Rio se neanche ora un altro, no, un bel giro da poco. No, questo qua era un attore e basta, ha lavorato con me qui dalle parti vostre, già vero, le parti lì avevamo fatto vicino ai carabinieri, abbiamo fatto i marciapiedi, capito? Claudio deve essere spostato 2 metri. Vabbè, comunque potete lavorare, basta che paghi, no? Vabbè, tanto che paghi, no? Sì. Sai, vabbè, stavo da qua, è un tipo che va molto in corsi a lavorare, ha una figlia adesso, basta, quanto so io, quindi è rimasta da sola una figlia, ma per non lasciare la figlia da sola, insomma, lavora a Sassari, faccio lavorare a Sassari. Sì, io capisco. Dai, Vanni, ci sentiamo dopo, devo andare un attimino, devo lontanare, già ci sentiamo dopo, tanto sono qua, devo spostare dalla radio. Via. E farò fuoco, per fare fuoco a mia moglie. dalla stufa. Ah, pensavo di mettere i canotti. No, io ho rostito a pranzo, ma ti dico, non ve la mangiate il cane, ci abbiamo fatto. Io e l'aria Anna metti, ha già visto col tempo, ho detto, beh, oggi si arrostisce. Ehi, babbo, scusate un attimino, che mi avevo allontanato. Ehi, ehi, sentiamo, vai Vanni. Ehi, ciao, sì, è una bruciata. No, io li avvaggio a parecchio. KK, ma ti dico, ci abbiamo fatto una bella mangiata di carne, Vanni, pancetta, salsiccione, capocollo, in tre. Sono stato veramente di lusso. C'era mia figlia a casa, ha detto, ma cosa lì ci sei? Pronti? Aiuto, andata. Chiaro, se ci vuole ci vuole. Quando ci vuole, tutto è buono. Un po' meno faccio arrosto qua. Ultimamente canto io, mia busta era sempre così attaccata. Sì, sì, mangio qualche volta il pesce, non è bravo, quindi si sa. Però si craccarmi le passate. Anzi è capo di dieta, è capo di appena una sana. Spiegando un po' di cose a cosa sta a Roberto. Sì, ci devo andare a fare una piazza questa settimana, giovedì o giovedì? Non questa settimana. Prega per soltanto. Buonasera, buonasera, nessuna facilità, siamo qua. Come anche Radio Montereccere, già, io ti sento, cazzo. Io invece comprendico già che sei trattendo, così di scemo di fecchenni, cazzo, boh. Ti sento cupo, male, guarda, con tutte le HF che ho, con tutte. Ti sentivo così bene ultimamente, boh. Tu bene lo senti, Vanni? Io lo sento impastato. Già, ma davvero, è tutta impastata, metallica, brutta, boh, cos'è che stai usando? Aspetta, devo cambiare il microfono. Chi cazzo, ma avrà un microfono già, toglielo la metà ai piedi, usa quello bello che fai sentire sempre. Minchia, ma brutta veramente, metallica, tutta barattolosa, boh. Ciao Giovanni, buonasera. Anche dici male, sei basso di segnale, forse mi Vannino ti ascolta bene che ha sorso, non lo so. No, il segnale è 3, ma la radio è 3, guardi, sono bassissimo. E figurati, no, chi c'è per sassari, sei a sorso, lui lì a Pantamona, ma non capo più, Santiago 2, radio bassa, devi aumentare la radio, devi fare qualcosa Giovanni, se no è un casino qua. Compra, non temere di comprare, capito? Tanti soldi vanno e vengono, e se vanno e non vengono la matta si goccia, vero Rani? Infatti, non è problema, prima o poi si ricorderanno di te. E allora, amica, io sono passato, d'accordo Spagliero, adesso però non ci posso passare più. Andando a finirli, vabbè. Sì, domani mattina ti chiamo dopo le 8:30, Vanni. Prima sistemo mia figlia che deve aprire il bar alle 8, alle 7:30 vado anche io, do una mano a sistemare le sedie, le cose, i tavolini, e poi faccio le 8:30 ti chiamo. Così mi avvicino, andiamo a prendere un caffè. Ti pago e me ne vado. Gianni, da che fine hai fatto? Vabbè, sono sotto. Gianni. Gianni Vanni esce benissimo, c'ha dei microfoni eccezionali, c'è un periodo va, il tuo microfono, di un peso che il microfono perché sta uscendo così, non mi piace, l'ho già letto, ma lui già rimedia subito, non ci sono problemi. Gianni che è? Doppio! O triplo? Gianni Trippo. Mentre invece mi tocchiamo un po' i microfoni, Vanni, per la ricercata non avevi fare che il microfono della ICOM da tavolo, no? Ma che microfono? Della ICOM, ICOM, tipo SM20, SM8, quindi avevi un bel della ICOM, il microfono, non ne hai, no, della ICOM, per l'820H. No, ne ho due, ma non esiste. L'820H ce l'ho anche io. Io ho l'820H in due, no? Però vogliamo metterci il microfono a tavolo. E quindi sto cercando un SM20, ma sa se non ce n'è. No, io lo uso nella 275, nella 275, quindi tengo lì. Infatti. Certo. Va bene. No, non ti ho chiesto, non sa mai che ne arrivi qualcuno in più da parlare. Ho preso anche quello, visto che sto scendendo, un problema. E adesso telefono alla maschera per domani a vedere se hanno qualcosa, perché non avevano niente della ICOM, avevano solo della Kenwood, ho preso un 60 e basta. Ma vabbè, dai, vi lascio il mio modo più bello, non ne ho più fatto. Allora, sì, domani va tutto. Ciao a tutti, ciao Gianni, c'è anche l'altro qua, tu mi sa che ha migrato leggermente la RAI, forse è stato un po' sulla RAI. Vabbè, comunque va tutto il segnale, quindi mi prendo aiuto. Basso il segnale, molto basso. No, domani mattina ti chiamo alle 8:30, ti chiamo. Scendo, mi prendo un caffè e poi me lo risalgo. Ok, ciao. Ciao Vanni. Conosci Gianni, no? Cosa stavo dicendo? Ma beh, no, non riesci a mettere un'antenna come Cristiani lì? Un'antenna devi mettere lì, non devi mettere, devi mettere un'antenna e buh, messi al pulso. Che te le bollisci. Claudio, ci sei? Oh, Gianni doppio root, the best. Era batteria, che si è cambiato la batteria. Era, vabbè, ne l'avevo messa già un'altra, però era mezzo scaricata. Questa è la radio super, l'altra già, mamma mia. Cosa mamma mia? Questa va bene la radio, l'altra no, quella che stavo usando prima no. Perché la batteria, adesso me l'ho misurata col tester, è a 3. E non amplifica, non fa, no, questa è una bella radio, come sempre, lo sai, io quando esci bene te lo dico. Allora io avevo la batteria a scarica l'altra volta, poi ne avevo un'altra che avevo già usato, ce l'avevo da parte, l'ho messo quella, non era nuova, capito? Probabilmente si è scaricata anche quella lì, senza probabilmente, perché scarica. Quindi probabilmente, cioè, è successo questo, che era sottoalimentato, non ce la faceva. E infatti fanno sempre così queste cose, quando sono sottoalimentate cominciano ad andare in numeri, non escono più. Non ce la fanno a far uscire come si deve, là. Interessante che abbia risolto. No, non è un problema, sicuramente, l'ho detto a Vannino, poi l'ho fatto Gianni ha il microfono già risolve, già sa dove mettere le mani, sicuramente è un problema così. C'è i microfoni buoni, esce bene, quindi quando capita, anch'io mi provo a fare, stavo cercando di regolare un microfono, ma non mi piace, mi ha detto già va bene, ma a me non mi piace, l'ho staccato, ho messo dentro l'armadio e ho riattaccato il 60. Allora, la storia è questa, che ho preso le batterie, quelle alcaline, quelle che ci sono da Ruspin, capito? Con le batterie lì non durano più di tanto. Probabilmente è quello, perché le altre mi fanno anni, 2 anni, 1 anno e mezzo. No, non ne prendo di quelle dello Spin già. Una volta le ho prese, mani da piedi. cosa che mi serviva per lavoro, uno strumentino piccolino che mi serviva per misurare la cosa del pH dell'acqua, fare delle analisi veloci così, gli impianti. Avevo messo quelle batterie, che sono durato da Badesi a 30 l'agosto. E se sono rimasto a piedi perché poi era l'ora di pranzo, era tutto chiuso, capite, sono rimasto a piedi. Non ho più preso di quelle batterie. Sì, le barche a parte le vendono, però bisogna sempre trovare quello che le vende. Di solito le vendono i tabacchini, così c'è sempre a piedi. Io vabbè, d'inverno a Badesi, vabbè, ai nuovi, c'era né a luna, riaprono alle 5 e chiudono alle 8, l'estate sì, l'estate è tutto aperto lì, tutto aperto anche di notte, ma d'inverno non c'è un cane in quelle zone, kappa, vabbè, l'importante è che è risolto. Adesso se ne va oltre il fondo scala del microfono la batteria, ma sì che più carica del solito, sarà più di 9 volte. Questa è salenta, no? Kappa. Lui, va bene, ce l'ho anch'io, va benissimo col Galaxy, però deve avere sempre la batteria a carica, altrimenti è un casino. Ma l'ho immaginato che era la batteria, adesso la cambio. Ce l'avevo comprata l'altro giorno, ma non avevo voglia di cambiare, l'ho lasciata lì. Ho detto, quando si scarica di tutto gliela cambio, e è successo. Poi vabbè, non è successo niente, funziona che si i problemi. Vabbè, quella cosa là che mi hai mandato, attaccata la classe. Ehi, già, un cinema, in 4K, ieri come inquadravano, che se vede uno va via, un neo nel collo, riesci via, vista che un neo nel collo, che bello, 4K è favoloso. Quello costa anche di bisogno. Costa sì, ho fatto mandato un Emilio al Capoaria, ci conosciamo, della provincia di Cagliari, mi ha detto, no, stai scherzando, non ci mancherebbe. Hai fatto un grande lavoro, l'ho pubblicizzata io con l'antenna, capito, non la conosceva nessuno. E come io ho fatto per il 747, quando l'ho preso io, poi ce l'hanno preso tutti. Io ho mandato foto, ce l'ho mandato tanto, non è che telefonate, quello, quell'altro, a Cagliari, amici di Cagliari, colleghi, non colleghi, insomma, gente che conosco, ho venduto un bel. Mi hanno proposto anche la cosa per il nord di Sardegna, ho detto no, non voglio io di girare, di fare, no, ma guarda, ti diamo il portafoglio clienti, non mi interessa, io il mio lavoro l'ho fatto, vi ringrazio di tutto, però no, io non sono andato a lavorare perché non ho più voglia di lavorare, non voglio fare dipendenze di nessuno, puoi fare quelle cose, devi mandare tutti gli ordini, devi mandare quello, seguire, fare, allora la tua diventa macco. No, va. Quante gliene hai fatto vendere, Claudio, a te? Una cinquantina. Gli accettano, allora dai. E con televisore costa, costerà, penso, sui 1.000-1.100 euro. Sì, una cosa del genere, hai mangiato, considera, a 180 euro una, 1.000 antenne le vendo, io ho fatto a 160 e a Carlo gliel'ho fatta pagare a 160 lo stesso, sono a 180 più 20 di trasporto, quindi sono 200 euro, il trasporto vabbè, loro lo pagano, però 180 euro di antenna, 3 per 5, già ne ho fatto guadagnare di Neros. Vabbè, ma non è tutto guadagno qua, cioè loro hanno anche la spesa per l'antenna, poi hanno una percentuale di guadagno su ogni antenna, certo. Non lo so, assolutamente, adesso me ne hanno chiesto 3-4, infatti domani mattina chiamo e faccio mandare, cioè fermo deposito SDA, faccio io, capito, se no bene in oga mi si viene al gas alle antenne, faccio fermo deposito, quando arrivano 3, 4, 5 mi chiamano, come hanno fatto per i TV, ma prima che ti è arrivato un pacco enorme, a me, non c'è girato nulla, no, sempre la Smartec, che cos'è? Non lo volevano lì, poi quando sono andato, ha detto no, non è possibile. Io pensavo che erano accessori delle antenne, qualcosa, capite? Sì, già va bene. qua, insomma, un pochino ti è rimasto ritardo quest'anno. Guarda, ti dico già che ne dovevo prendere un altro, non così enorme, perché almeno un 32, dai, da mettere qua a parete in sala radio, non come c'avevo di là. Però di ultima generazione, perché c'avevo un MIFARA di mia suocera, cioè, va bene, ma però qua adesso con la nuova generazione, tanto non vedi nulla, lo dovevo prendere. E invece adesso quello che avevo, che è un 46, me lo passo qua e ne sono, ho messo il 55, ma già ho dovuto modificare tutto il salone, perché quello lì era incassato dentro un quadrato fatto apposta, capito? E adesso lì in quel quadrato ho fatto fare un altro lavoro con una mensola in modo da abbassare il ripiano, ho dovuto spostare quel mobile e mettere da un'altra parte e rimettere la base per mettere il 55. L'interessante è che ci sia la distanza per non dar fastidio, perché non so se ti ricordi i primi che erano usciti, che c'erano nei locali, te lo ricordi quando si vedeva male, era tutto buscato, non era bella l'immagine. No, già, guarda, questo è in 4, è un Android 4K Super HD, c'ha il telecomando come il mouse del computer, bellissimo, bellissimo, c'è tutto, tutto già memorizzato, tutto, Netflix, Windy, Windplay, tutta la Rai, tutto, dalla Z, mia figlia sta guardando Netflix, bellissimo, molto molto bello, se vede, guarda, Dio, ti ripeto, da Dio 4K non ce l'avrebbe, ma è una cosa veramente molto molto bella, molto bella. E adesso non c'è più tanto di andare al cinema, infatti stanno tutti fallendo i cinema, via. Ha aperto solo quel moderno che ha tanto isolato, che era uno dei cinema più rinomati a Sassari, e c'è rimasto solo quello di Via di Umberto, il moderno, che è l'ex moderno, diciamo, di sala, perché poi la gente adesso si sta attrezzando, si sta comprando tutta la barada per ascoltare l'effetto cinema, con tutte le casse, eccetera, eccetera, e quindi non ha più bisogno di andare al cinema, anche se andare al cinema era un'altra cosa, perché era per stare in compagnia, eccetera, eccetera, ma io mi ricordo quando abbiamo visto con gli amici miei, abbiamo visto, come si chiama, L'Esorcista, aspettavi come io, quel peso di un bello l'ho toccato, che ha tutto un brinco, guardi che un zichirio. Oh beh, già, tu lo sai, noi abbiamo anche settà, quindi abbiamo fatto di... siamo andati al cinema, io andavo sempre, sempre, tutti in greff, andavamo, a destra, a sinistra, capito? Però adesso, oramai con la nuova generazione, quando c'hai Netflix, c'hai Google, c'hai Google Play, tutte le cose, non ci fai nulla al cinema, te la vedi a casa, intanto guarda, sono tutti in anteprima, i film che danno così sulla TV oggi, l'ultima generazione, sono tutti film in anteprima, che sono già usciti al cinema. Sì, ma per dire, avendo lo smart TV, puoi entrare su internet per scegliere il film che vuoi e guardartelo, noi lo facciamo sempre, perlomeno i miei figli lo fanno, io non lo faccio molto, ma loro quando vengono qua cercano, fanno, io che tutti ci guardiamo, papà, io dico la verità, di guardare il film adesso proprio non ho più la pazienza, prima mi piaceva, adesso non riesco più a guardarli, a volte mi addormento prima che finisca, capito? Quindi non riesco più, preferisco guardare un programma piuttosto che guardare i film. E specialmente di notte mi trovo. E quindi sono loro che cercano il film che vogliono, c'hanno Netflix, c'hanno tutto quanto praticamente, hanno fatto l'abbonamento, non so, il Disney. E fatto sta che pagano 10 euro al mese, mi pare, si guardano i film che vogliono. Anche l'aria, c'è l'abbonamento su Netflix, non so, spara 10 euro, boh, una cosa del genere, si riguarda sulla TV, capito? Si riguarda sulla TV, si dice wifi, si riguarda la TV, ma ti dico, venire avanti. Sì, e a volte non c'è niente, però già, certo, guarda, lo sabato, cioè Maria De Filippi, poi cosa c'è? Sulla RAI mi sembra ci sia quello tali e quali, poi qualche altra cosa, il venerdì c'è il Grande Fratello, lunedì c'è il Grande Fratello, non c'è più niente, io a volte mi metto a Di Max, metto a Focus, vado a cercarmi dei documentari, delle cose che pensiamo a poi guardare, ma se no cosa cazzo guardi? Ora, ora, ora, ci sono? Programma alle 9, Alta Infedeltà, non so se l'hai mai visto. Sì, te lo guardo, chi è che ha detto la ora? Ci sono? Ci sono? Oh, oh, oh, ecco, aspettatemi, no? Ma fatene voi, è passato a Gianni che ha detto la ora? No, no, no, non l'ho fatto, l'ho fatto involontariamente allora. Ciao Gianni. Ciao, vabbè, io sto facendo come si fa. KK. E niente, stavo dicendo, dai, saluta Tino e qui, continuiamo. Sì, Tino era qua anche poco fa, ci siamo già salutati, si è allontanato per attaccare la stufa. No, vabbè, l'ho sentito, diciamo, ho sentito anche a te, ma ho sentito l'aula sotto, non è che ti ha superato, c'è un segnalone qua già, neanche da liscio, sei 9.20, non è che è poco, quando attacchi sei 9.30, lui è 9.20 lo stesso, però ho sentito anche a te. Avanti, ti. No, niente, era giusto per vedere se stava andando questa cosa, perché l'ho fatto scaldare. Va, va, 9.20 pieno, sì. Allora, aspetta che sarà un po'... dopo accordo, eh? Ci ho parlato, sì, 25, eh? Aspetta. No, oltre non va per adesso, va. 25, ci ho parlato, 26, 27, già va bene. Ehi, caspita, voi. E io invece quanto sono, qua? 9.30 pieno, te l'ho detto, tu vai da 9.20 con qualsiasi radio, vai 9.20 il tuo segnale, è tutto segnato qua, quando attacchi sì, 9 più 30, ottimo. E guarda così invece, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E qua sei di più di 9.30, come mai? Perché ho aumentato i watt dell'apparato. Va bene, 9, quasi 35, sì. Vabbè, ma allora anche io devo aumentare, scusa. Buonasera. Buona, buona. Guarda, aspetta, eh. Oh, oh, oh. Che sto aumentando io? Sto aumentando il fatto. Ora, ora, ora, ora, ora, non lo so. Basta, mi stai disturbando il tuo visore. Poi, Eugenio, Eugenio. Ciao Eugenio, no, proprio il tecnico di trasmissione. Buonasera a tutti. Parlo con Eugenio, io con Eugenio più dalla parte mia, io, vai. Cosa? Ho detto che Gianni è più dalla parte tua, è più vicino a te. Diciamo che è molto aperto per me Gianni. Sicuramente con Eugenio non lo so chi è che passa. Sono normale, sono con un verbatim. Non lo so chi passa da Portotese tra te e lui, l'ho provato. Aspetta che faccio una cosa, perché non so se ho... Aspetta, eh. Eugenio, guarda un po' il segnale mio adesso, e non ci sono tutti, devo scaldare ancora. Ok, 9.10. Vai Gianni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Molto per Gianni. E allora? Chi passa da te, Gianni? No, Gianni è 8. Invece lì Mister Muscolo è 9.10. Cosa avete? No, aspetta. Eugenio, quanto ti sono arrivato adesso? Adesso sei a 8, come sempre. Ma io non ero attaccato, Guarda adesso, guarda un attimino. È uguale a... a cosa? A... a Tino, 9.10. Hai visto, hai visto. Dicevo, vabbè, non so, che sono 8. No, vabbè, arrivo in cui, quanto per arrivo oggi è così, liscio liscio. 7 pieno, modulati sali quasi a 8, dai. Figurati, sono dietro. Va va bene. Io sono soddisfattissimo di questa zona, ma io ho l'antenna molto bassa, cazzo, ma non Giovanna, che ho detto perché era mio figlio. Nonna Giovanna che ha fatto l'antenna, ma se faccio uscire il cane, no, le prendi ti. Fino a quando modula mi spegne il televisore. Chi è questo qua? Giovanna, tu sì! Giovanni, buonasera! Sì, se basso basso di radio, io quasi non ti sento. Chi non lo sento? Eugenio, tu lo senti a Giovanni? A te, Eugenio, guarda ora, che è un altro canale accordato. Guarda un attimino, 1, 2, 3. Hai aumentato, sei quasi 9:20. Ah, pardon, scusate. Mi stai mandando tutto a te. E quanti fatti stai usando? Lo sai, quello nero. Ciao, Cristian, buonasera. Te l'ho detto per affetto, ciao Cristian. Allora a me mi segna quasi 700. Ma valvolare? Ah? Valvolare? Sì, valvolare. E quello lì succhia a fondo. Che ce ne frega, oggi è domenica, pago la metà. A me mi piace pagare molto di più. Meglio, Tino, ti faccio pagare il televisore. Va bene. Vedi, adesso lui sta pompando, ma non ho accordato ancora, perché ogni tanto se ne scende. Ma così dovrebbe essere lui. È bella la radio oggi. Guarda, ti dico cosa sto usando, l'HR5005, che per chi non lo sa è come il Bluetooth praticamente, è un ZG MP5 con il Galaxy 1000. No, io sto cercando un tunnel più 3. No, io ti posso accontentare con un più 4 se vuoi. Ma tunnel? No, non cercare il più 4. No, il più 4 è un ZG. No, sto cercando un tunnel più 3 ad accordare a questo apparato qua. Mi piace il tunnel più 3. E quanto lo vuoi pagare? E tu ce l'hai? Io già ce l'ho. Io ce l'ho super sedere. E lo stai vendendo? No, sto chiedendo quanto lo vuoi pagare, perché mi stavano sulle 180 euro su internet quelli lì. Quanto ti stanno dando? Anche 180 euro. E allora vallo. No, io non lo sto perdendo, ora no. Lo tengo perché mi ho fatto un attacco per il Galaxy, se vuoi te lo faccio anche sentire. Ma già so che funziona bene. Io se ce l'ho trovato su internet, ma non mi fido per niente. Sai cosa fanno? Le cambiano la capsula, li tolgono quella del tardo e ne mettono un'altra. Infatti, no, voglio prendere la gente fidata se lo trovo. Ma se lo fanno pagare, se lo trovi, minimo lo paghi 100 euro. Vabbè, 100 euro si possono anche spendere. Guarda, non lo so, io vorrei provarlo in questa radio, se va meglio o se va peggio. Solo che sto cercando un amico che me lo presti prima, se no lo compro. L'altro la volta. Non so, stavo parlando io, non so. Vabbè, comunque, dicevo che lo vorrei acquistare anche io. Però vorrei riuscire a trovare un amico che me lo presta momentaneamente per farmelo provare e vedere come esco. Insomma, tanto poi lo compro. Sì, quello sì, prima provarlo, ma è un microfono che si avvicina, si è dato a tutte le modulazioni. Io c'è, come si chiama, Giovanni o Cristian, mi pare, Cristian, avanti, se mi ascolti. C'è anche Giovanni, se lo senti. Sì, non ti ascolto io, per tutto basso. Allora aumento, ciao Cristian. Chi è Giovanni? C'è anche Giovanni? Allora. Giovanni ha aperto un Ce lo sento, avanti Giovanni, ci sei? Sì, si deve essere stufato, sta uscendo passo passo, quasi non lo sentivo io. A Cristian l'ho beccato, per un momento l'ho sentito. Ciao Cristian. Ciao, buonasera. Buonasera. Cristian, stasera stai uscendo benissimo, come mai? Io? Tappa, dove sei? Io sono a Bubu, sono a Budibuti. Dove sei? Budibuti, dove sono a casa. Ah, ecco. E mi viene a dare se è vicino a casa. Ah, sì. sono attaccato a Tino, se ti fidi, anzi sono attaccato a Tino proprio, guarda. Ancora non ci sei 9.30, comunque già va meglio, perché la radio è migliorata tantissimo qui, forse è regolato meglio il microfono, di antenna non so cosa stai usando. Ma cosa è il nazionale? Kappa. Aspetta, io da te quanto sono? Non me l'hai mai detto, lo sei, o sì, non me l'ammetto. Che non mi ha messo? Mi ha messo l'altro volume di... No, una donna, tre mesi, cosa sono prima io? L'ho rimessa che se mi facevo il conto, la fa due. Magari è trattato, controllava bene dove c'ha la bombina lì. Adesso ho messo il numero 1, l'ho messo, l'ho ucciso. Ecco, adesso lo sento, qui ti sento bene adesso. Ma il microfono amplificato? Appa, stai con l'eco pure. Ma non è quello che è un sussurro? Ottimo. Ehi, hai oggi? Svegli, ma io date quanto arrivo, che me ne sono dimenticato, non so se ti ho mai chiesto. Guarda, con questo apparato Santiago Novo, aspetta che accendo l'altro, un attimino. No, vai, ultimo segnale, già, a te. Guarda, con questo, prova. No, con questo arrivi di più però, 9.5, va Gianni, 9, da te andava su i brutto. No, da me sei molto di più, quasi 9.10, quasi con picchi positivi a 9.15, ma con il Kimbo, ho capito, va bene. Poi già andava bene. E con quanti passi stai uscendo, Luigi? Poi con subito, mi segna 15. Va bene, dai, già sta uscendo bene. E più o meno lo stesso segnale mio quando esco con l'altra parata. Sì, ne segna 15, ma modulati quanto te ne dà? 70, 80? Modulati, boh, sai la lancetta a 100. Chi c'è il bai sparviero alla radio? Mai compreso. Ciao Claudio! Ciao, ok. Infatti stavo aspettando lei cosa dice. Quella ci mette a 20 watt di portante nella 80 modulati. Ma io guarda, sinceramente quando avevo la radio lì erano sempre 20 fissi, poi se ne andava oltre 50, toccava passare. Allora guarda, io sono adesso con 140 e sto andando con la T250 naturalmente, quindi a correttore di linea. Lo strumento sta segnando 20, lo strumento la T250, nella radio perfetta 20, lo stesso, modulati o 50. Come mai da me sale così tanto? Se ho 15 watt, se sale, dai, tocca i 100 più o meno. Qualche regolazione sicuramente c'è da fare lì. Faccio la musica già va bene. No, sono tu che mi inunda, mi ha fatto inunda, già andate usci. Sì, se sente o no, preso lui. Io sono piccolino ancora. Tu sei 7 la mette. Io sono piccolino e sono dalla barra mobile. Spendo come da te sul tetto di casa. Come riesco bene? Sì, sotto casa tu quasi. No, sotto casa tua direttamente, sì, quasi. E oggi? Sì, dimmi. Guarda con Donato l'arrettore come esco. 9.5. Ma dove? Chi ciamba la musica? Questo è il Cobra. E qua sei 9.25 col Cobra. Quindi quando attacchi vai a 35. Kappa. E vabbè, ma questo qui ha troppo di entrata, capito? Quindi bisogna abbassare il vatio dell'apparato. No, ma quando non li vuoi allineare usi questo a massima potenza, ve ne fai i buchi già. Questo va bene. Questo è un bel segnale, vedi, al porto dottore ci arrivo bene. Io credo, ci trovo, trovo che l'ho usata con la radio. È una camionata bella esteticamente, bella funzionante, watt, frequenze, va di tutto con la radio. È un mini HF con la radio, veramente molto molto bella, è fatto benissimo a prendertela, ma non bene, benissimo. L'avevo detto, è fatto bene. Intanto per la stessa prezzo avevo preso una RAM 48, quindi potevo prendere anche questa. Sì, ma infatti, già, ma chissà, non hanno da che fare la RAM 48, tranquillo, non si va. radio, eh. Io quella l'ho usata sotto direttiva in 10 metri, mi ricordo a 28,450, sono spaventati. Infatti ho chiesto il ritratto solo per chiedere un controllo, per vedere così, era la zona, non mi ricordo, c'era un IT9, sì, a Sicilia. Mi ha detto, guarda, veramente stai arrivando una schioppettata, bella radio, bella corposa, bel segnale, tutto. E quando gli ho detto cosa stavo usando non ci credevo, mi ha detto, stai usando un bassissi, sto usando un barchino con i 10 metri e il microfono normale, anzi no, avevo messo il TAM più 3. E io qua ci ho messo il microfono, quello che abbiamo fatto con Franco. Ci è fatto da una carcassa di M300 e il cavo di un M1000, quello spiralato morbido, e la carcassa di un altro apparecchio, e praticamente ci avvitavano lì vitti, sembrava fatto perfettamente su, per quella scatola lì. E a volte basta, ci abbiamo dei case di microfono vecchi, basta mettere una capsula, una cosa, pintarsi e c'è un bel microfono, no, sta facendo bene già. Te l'ho detto, la notte rettore va benissimo, alla grande, vai ti. Scusate che non ho messo il collirio, non volevo disturbare la questione. Cosa? Ho detto che mi stavo mettendo il collirio. Il collirio negli occhi? No, nel QSO. Che l'accento? Io me lo metto in cornicione per vedere meglio, se no non trovo il buco. Ma chi testa c'è il cobra? Il cobra c'è. Gli ho detto a Tino, io lo metto nella, una punta ogni tanto nel cornicione per vedere meglio. Oh, mi ha fatto tanto di quelle risate oggi, ho visto questo tipo che si è entrato la mano nei pantaloni e si è aperto la braghetta e si è fatto uscire il dito e faceva finta di fare la pipì e andava la gente che diceva, scusi, non è che c'è uno spiccio, perché c'è un parcheggio lì vicino, aspetta un attimino che prendo gli spiccioli di controllo, tutti gli spiccioli dalla tasca e col dito che aveva tolto dalla braghetta cercava gli spiccioli, faceva pisciare dalle risate, le faceva tutti a bocca aperta. Ma usavano anche di camera. E allora, quello che mi camera, ma era una cosa, lo faceva troppo bene, e se lo prendeva con la mano, e poi li appiccendi al vivo. L'ho visto anche io voi, ma stava raccontando una barzelletta. Cosa? Ho detto, l'ho visto anche io quello lì, ma stava raccontando la barzelletta. No! Praticamente faceva finta che andava la gente, lo scusi, ma è successo un incidente, quello non è che può venire a darci una mano, no, un attimino che sto facendo la pipì, faceva, no? Ah, ho capito. Vabbè, scusate, mi devo allontanare, sono qua comunque. E oggi è ripì. Perché si è finito da fischio? Perché sono portatile? Ho acceso il portatile, ok, adesso vabbè, ho acceso il portatile e sentivo solattino col portatile, arrivavo a casa. Ma è il portatile UHF? No, il portatile normale, era un 38.